cambiata con uno in Spagna, okay? Perché il viaggio in nave non poteva mai comandarla, se erano in nave o di tutti gli altri continenti, e quindi lui non si portava loro dietro. Poi vabbè, secondo me io loro andavano a fare in cuglia le navi proprio per aiutare la natura a portare giù le navi, no? E quindi rimanere con tutte le loro. Ma tu sai che loro rimanevano lì per niente. Un grosso signore viene lì da 10 pezzi d'oro, e quando io parto, lo faccio io bene, ti faccio, ti faccio delle ricevute, c'ho un mio cugino lì, prima che non ci siano scarsi in tutta Roma, no? E il Florentino che per cui lui riconosce la mia firma e ti dà l'oro, lui c'ha la prova e altre persone, ti dà lui e dico la prova, l'oro è uguale, no? Come le macchine, puoi immaginare le macchine che sono tutte uguali, nessuno distinguerebbe se te la prendono o se ne metto un'altra, ok? E questo è da accettare. Allora questo aveva dei limiti per solo fermo. Adesso tiriamo una prima, un primo tutto tale. Il signore, tramite il signoraggio, sia laggio nel poter coniare moneta, voleva guadagnare sulla percentuale di oro che metteva nella moneta stessa, fino ad un massimo, ovvio, diciamo fisicamente la moneta, ma in realtà era la percezione del contadino. Quando il contadino non accorgeva che lo stava a fregare, doveva smettere di rubare. Ci sono monete che sono, come si dice, svilite, perché quando tu cambi il metallo nobile, quindi il metallo non nobile, la svilisce la moneta, no? Tipo del 90%, cioè una cosa che la vedi, no? Diventava leggera, per questo non è più la banca di chiusura, quella è una fatta, come si chiama, che è stato anche presidente della banca centrale Newton, io sono tutto il mondo, come sono attaccato delle vere e delle mie, in realtà era stato anche governatore di Isaac Newton, alcuni dicono massone, è stato anche governatore della banca di Inghilterra e ha fatto le determinature non due corte delle monete per non farle costare, quindi dice, noi non avremo moneta, la doppia, no? E fatto sta che appunto il re così tanto non poteva rubare, ok? Quindi il re aveva un suo limite, è da condannare e da perseguire, perché chi uccide una persona non è meno colpevole di chi ne uccide 100, ok? L'omicidio è omicidio, poi è più omicidio, strage è una questione. Quindi il re è comunque da condannare, e forse anche sugli altri, visto che l'input alla capacità, al meccanismo di rubare sul lavoro altrui. Quindi il re da condannare. Però lui fisicamente, tecnicamente, più di tanto non poteva rubare. E aveva bisogno di una moneta fisica. La moneta era quella potuta scritturare, diciamo, l'emissione di carta moneta legata al banchiere e alle riserve che lui aveva d'oro, avevano questa. Questo stesso vincolo, ossia di rapporto uno a uno con le monete in deposito. Il banchiere, più di tanto, che cosa voleva fare? Poteva mettere carta, no? Lui metteva carta, ma chi la metteva carta? Il banchiere metteva carta solo a due tipi di persone, a chi depositava l'oro, e quindi lui metteva carta, e non poteva rubare nulla su quello, e a chi chiedeva oro. Giusto? Perché quando tu hai bisogno di acqua vai a posto, quando hai bisogno di soldi vai in banca. E la banca è un posto senza fondo. La banca non ha limiti a prestarti i soldi. I vecchi banchieri, questo tipo di oro con banchiere, aveva i depositi fisici che aveva in cassa. Oggi ci pensi, quello è partito per Nuova York, torna là, chissà se torna, il fattore di buio della nave, forse non torna, però tornerà fra due anni, lui per due anni ci pensi. Ok, il signore di Modena mi ha lasciato 10 pezzi d'oro, mi sa che torna, io questi li posso prestare. Come quel tizio, la vostra macchina può usarla. Perché? Perché voi non vedete la prende, non ne sapete nulla, siete all'oscuro. I soldi che voi avete in banca, in realtà, a parte che oggi neanche ci sono più i soldi in banca, però lo affronteremo in una seconda parte, è ancora più tragica. Però diciamo che il banchiere aveva questo limite fisico, di prestare cose non sue, lui era solo il custode, voi eravate possessori, lui prestava cose non sue alle persone che ovviamente facevano, ne facevano richiesta. In un numero massimo, che era il numero che lui aveva in cassa, che non veniva preso. Normalmente se lui in cassa aveva 10 pezzi d'oro e come dicevo prima, parte il macellaio, parte il sarto veniva, non degli altri non veniva, ma quindi si diceva solo due, aveva il cosiddetto movimento di cassa, quindi non tanti, il resto era sicuro di poterlo prestare. Questo rapporto si chiama riserva frazionaria, ossia il banchiere presta ciò che sa che non viene richiesto, ok? Finché la moneta è stata d'oro, è legata comunque a loro, c'è stato questo limite di riserva frazionaria, questo era un primo tipo di riserva frazionaria, poi è evoluta anch'essa. E quindi anche perché il pubblicato non poteva rubare. Si dice che rubare, presta una cosa e poi la gliela riporta, no? Ho capito, ma quello si fa un giro con la tua macchina, ci va a fare un carico di qualsiasi mercanzia, ci fa i suoi magheggi, le sue cose, poi la riporta. Qualcosa ti dovrà rispondere, o no? Dice già che non sta prendendo per dolorizzazione, almeno lascio le stesse cose della benzina, cioè se ho fatto un giro con la mia macchina. I banchieri in realtà qualcosa danno, quello che quando avete un conto corrente, no? Ci sono gli interessi sul conto, ma è una cosa irrisoria rispetto a quello che loro oggi prestano. Vedremo come si è evoluto in certi là, riserva stazionaria. Ora se volete facciamo una pausa prima di 5 minuti, 10 minuti. Allora, caro, Dio salva il re.